Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Vittime in Iran nelle proteste contro Ahmadinejad. Oggi pomeriggio nuovi cortei, mentre il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione dice pronti a ricontare i voti. Le aziende non scarichino i costi della crisi sui consumatori, lo dice il presidente dell'antitrust nella relazione annuale. E sulle banche, reputazione compromessa, serve più trasparenza. I voli di Stato di Berlusconi, PM di Roma inviano gli atti al Tribunale dei Ministri e chiedono l'archiviazione. In Italia 3 detenuti di Guantanamo, promette il presidente del Consiglio ad Obama, ma c'è una contropartita. Tra poco l'analisi sulla visita del Premier negli Stati Uniti. Si va verso i ballottaggi, si vota domenica e lunedì in 5 province, 43 comuni. Oggi l'intervista ai due candidati sindaci di Firenze, Galli e Renzi. Camera al voto sul decreto terremoto, che oggi potrebbe diventare legge, ma gli amministratori locali non ci stanno. L'estate dei concerti, attesa per U2, Madonna, Bruce Springsteen. Domenica sera l'evento per l'Abruzzo, Laura Pausini, Giorgia, Gianna Nannini e molte altre cantanti allo stadio San Siro di Milano. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura andiamo in Iran per questa edizione del GR Extra Large, dove ieri si sono registrate le prime vittime. Insomma, prosegue la sfida al regime del presidente Ahmadinejad. Ci colleghiamo in diretta con Teheran, con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, innanzitutto, quali sono le ultime? Le ultime notizie sono che Mir Hussein Mousavi, il candidato battuto da Ahmadinejad, che ieri ha cappeggiato l'oceanica manifestazione terminata a Piazza Zadi, a Piazza della Libertà, ha invitato oggi i suoi supporter a non andare in Piazza Valialtra, nello stesso luogo da dove dovrebbe partire un'altra manifestazione, questa volta però dei sostenitori del presidente Ahmadinejad. Oggi dice: io non andrò in piazza, afferma Mousavi, e penso che sia molto pericoloso convergere in quel punto della città. Intanto il portavoce del Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione ha affermato che ci sono le possibilità per un riconteggio dei voti e, se fossero verificate delle irregolarità, anche per l'annullamento, la riconvocazione delle elezioni. Sembra però una mossa più che altro per prendere tempo in attesa degli eventi. Sì, quindi più che altro, Alberto, probabilmente per calmare le anime, per evitare che ci siano nuovi incidenti. Sì, certamente la tensione è molto alta e viene anche segnalata dal fatto che comunque l'azione repressiva continua come prima. Oggi sono stati arrestati Abtali, che era il vicepresidente di Khatami, dell'ex presidente riformista, ma anche un altro dei suoi consiglieri, Saeed Ajarian, paralizzato su una sedia a rotelle dopo un attentato gravissimo. Ci sono anche altre misure di sicurezza. L'università, oggi sono stati annullati tutti gli esami per impedire agli studenti di andare appunto negli atenei, ed è presidiata dalle forze di sicurezza. Un'ultima domanda, Alberto. C'è già chi parla di una sorta di rivoluzione. Hai l'impressione che sia così? Ieri abbiamo parlato di guerra civile, hai detto è presto per dirlo. Oggi qualcuno parla di rivoluzione. Che impressione hai te? Siamo entrati in una fase di altissima turbolenza in Iran. Quelle fasi di turbolenza in cui in realtà gli esiti possono essere imprevedibili. Sappiamo benissimo che da parte c'è un regime, quello di Ahmadinejad, deciso, in poche parole, a tenere il potere a qualunque costo, anche facendo dei compromessi che però poi taglino le gambe all'opposizione. Dall'altra c'è una parte della popolazione decisa ancora a scendere in piazza. In realtà, giorno dopo giorno, ora dopo ora, tutto quello che sappiamo dell'Iran viene confermato e smentito a velocità altissima. E grazie Alberto Negri anche per oggi e anche per questi aggiornamenti. Rivoluzione, si diceva, non lo è ancora questa, anche se gli assomiglia molto. E avviene a 30 anni da quella che nel 79 depose lo Shah, portando al potere gli islamici. È un suono inquietantissimo ed è un suono incredibile in questa città del deserto, in questa città islamica. Così, dai microfoni di Radio Popolare, nel 79 Carlo Panella raccontava la rivoluzione iraniana per cacciare lo Shah. Il primo febbraio del 1979, però, l'Ayatollah Khomeini, dopo 15 anni di esilio trionfante, faceva ritorno a Teheran dopo aver ispirato e guidato la rivolta. Così ci racconta oggi quegli anni Carlo Panella. La rivoluzione iraniana 78-79 ha avuto una caratteristica unica tra le rivoluzioni del Novecento, nel senso che è stata, direi, totalitaria. C'è stato un movimento popolare di massa contro lo Shah sotto la leadership di Khomeini e un appoggio concorde di tutte, assolutamente tutte le forze politiche iraniane alla leadership di Khomeini, e da qui anche gli equivoci degli analisti e degli inviati entusiasti come ero io. È finita male perché in realtà l'Iran è un paese composito, molto difficile da capire, e perché è successo quello che in qualche maniera si sta ripetendo adesso come scenario. La rivoluzione a Teheran è stata guidata ovviamente da settori urbani, moderni, e da una leadership urbana, moderna. L'Ayatollah di Teheran, Taleghani, Bani Sadr, Bazargan, sono tutti coloro che poi fecero parte del primo governo rivoluzionario, che puntavano ad una repubblica islamica sicuramente, ma con forte connotazione di pluralismo. Questa dirigenza fu sommersa e questi dirigenti rivoluzionari furono o esiliati o impiccati da una sorta di Vandea che però era interna alla città Teheran, che era composta dal clero oltranzista, da questi personaggi. I primi erano Khamenei e Rafsanjani, che oggi sono invece su sponde opposte, che hanno imposto questa repubblica islamica teocratica. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere questa pagina sull'Iran, sentiamo come affrontano la questione i quotidiani arabi in edicola. Come sempre, la voce è quella di Adib Fateli. Teheran brucia, preludio di rivoluzione, l'intifada degli stendardi verdi. Sono questi alcuni dei titoli d'apertura sulla stampa araba moderata per le violenze scoppiate nella capitale iraniana subito dopo il contestatissimo annuncio della vittoria di Mahmoud Ahmadinejad. Se il saudita al-Sharq al-Awsat scrive che in Iran il peggio deve ancora arrivare, il giornale libanese filo siriano As-Safir risponde: è schiacciante vittoria che risarcisce gli Hezbollah libanesi usciti sconfitti nelle elezioni del 7 giugno scorso. Al di là degli schieramenti arabi, quel che avviene in Iran segna una crepa importante nel regime degli Ayatollah, commenta invece un politico arabo alla TV Al-Arabiya. Adif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E tra poco torneremo sull'Iran, sentendo invece come la vedono gli altri quotidiani internazionali. Nel frattempo ci spostiamo, andiamo a Roma, alla Camera, dove oggi c'è stata la relazione annuale dell'autorità antitrust. Ha seguito il discorso di Antonio Catricalà, la nostra Chiara Di Michele. Chiara, allora... Sì, buongiorno. L'autorità garante della concorrenza e del mercato oggi ha lanciato diversi moniti. Il primo riguarda le liberalizzazioni, una scelta obbligata e virtuosa, secondo il presidente Antonio Catricalà, da incoraggiare insieme allo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Il garante della concorrenza e del mercato poi si è rivolto al Parlamento affinché vigili perché i costi della crisi non ricadano sui consumatori e ha riservato un monito particolare alle banche ancora poco trasparenti. Sentiamo. Stabilità e redditività discendono anche da fattori reputazionali che oggi sembrano compromessi più che in altri periodi. Parte della sfiducia è dovuta alle prassi contrattuali spesso troppo articolate e difficilmente comprensibili da parte dei consumatori. Vanno fatti ulteriori passi in avanti sulla strada della trasparenza, intrapresa solo ora con una certa timidezza. Un richiamo anche al tema del conflitto di interessi. La legge, spiega Catricalà, è in parte macchinosa, ma l'antitrust non può intervenire per modificare la disciplina. Il presidente dell'Authority infine ha reso noto che il volume complessivo delle multe decise dall'antitrust tra il 2008 e i primi 4 mesi di quest'anno ammonta a 83 milioni di euro, di cui 52 milioni solo per scorrettezze commerciali. È tutto, a voi la linea. Grazie Chiara per questi aggiornamenti. La cronaca adesso con la maxi operazione antimafia oggi in Sicilia, 13 gli arrestati che coprivano un boss molto importante. Smantellata la rete di copertura del superboss di Cosa Nostra trapanese, Matteo Messina Denaro, ricercato da 16 anni, la polizia ha arrestato all'alba nelle province di Trapani, Palermo, Roma e Piacenza 13 persone, adesso accusate di associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti e trasferimento fraudolento di società e valori. Nella rete di presunti favoreggiatori e postini del boss ci sono pregiudicati, imprenditori insospettabili e anche una donna. L'inchiesta Golem ha consentito di scoprire, oltre alle attività delle famiglie nell'ambito delle estorsioni, anche un traffico di droga fra Roma e il territorio trapanese, scoperti anche i sistemi attraverso i quali i boss detenuti al 41 bis riuscivano a comunicare con l'esterno ed inviare messaggi diretti anche al latitante Matteo Messina Denaro. Per questo oggi sono stati perquisiti 15 istituti di pena nei quali sono reclusi una trentina di trapanesi che avrebbero avuto contatti con gli arrestati nell'operazione Golem. Dall'inchiesta è emerso come, nonostante fosse attivamente ricercato dal 1993, Matteo Messina Denaro abbia mantenuto una grande capacità di movimento, riuscendo ad effettuare numerosi viaggi in Austria, Svizzera, Grecia, Spagna e Tunisia. La polizia italiana, in collaborazione con l'Interpol, inoltre è riuscita ad individuare alcune persone che all'estero avevano rapporti con il boss latitante. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E ora spazio ai libri. È uno dei 5 romanzi finalisti del premio Campiello. Parliamo di Conta le stelle se puoi di Elena Lewenthal, pubblicato da Einaudi. Una saga familiare che parte con Moisin Levi, giovane ebreo che alla fine dell'Ottocento lascia Fossano con il suo carretto di stracci per cercare fortuna a Torino. Da qui si seguirà la sua vita e quella dei suoi eredi con una sorta di cortocircuito della storia sullo sfondo. L'autrice immagina che Mussolini muoia nel 24 e che l'Italia non abbia mai conosciuto le leggi razziali, come spiega la stessa Lewenthal. Questo è il nodo di tutto il libro. Io ho voluto provare a scrivere una storia non senza i miei morti, ma insieme a loro. Ho rinnegato la Shoah non per negarla, ma per ribadire una cosa che mi tormenta da molto tempo, e cioè che quella storia, quella che è vera, che è successa, non era una necessità, poteva anche non succedere, perché noi ebrei e la mia famiglia, così come quelle di tutti gli altri ebrei d'Europa, non siamo fatti e non eravamo fatti per finire nei forni crematori. Ho voluto provare a immaginare una storia diversa per sentire ancora un po' la compagnia di tutti quelli che quella storia l'hanno purtroppo attraversata, e come in ogni famiglia ebraica anche la mia è piena di queste vite finite laggiù. Ho voluto così provare a immaginare una storia diversa per non arrendermi alla necessità di quella che invece purtroppo è avvenuta. Un libro ben scritto, forse all'inizio un po' in salita, ma che pagina dopo pagina diventa sempre più coinvolgente, che non mancherà di commuovervi. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:15 minuti e 59 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato di Iran, abbiamo dedicato un'ampia pagina a quello che sta succedendo, ci sono vittime nelle proteste contro Ahmadinejad e poi nel pomeriggio sono previsti nuovi cortei, anche se il leader riformista Mousavi ha chiesto ai suoi di non scendere in piazza. Abbiamo parlato della relazione annuale dell'antitrust, il presidente dell'antitrust chiede all'azienda di non scaricare i costi della crisi sui consumatori, attacca le banche, gli dice reputazione compromessa serve più trasparenza, e poi abbiamo parlato di una maxi operazione antimafia. Ora ci occupiamo di voli di Stato. Eh sì, perché i PM della Procura di Roma hanno preso una decisione sul procedimento nei confronti di Silvio Berlusconi. Qual è? Lo chiediamo in diretta da Montecitorio alla nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, come era previsto, la Procura di Roma richiede l'archiviazione dell'inchiesta sui voli di Stato. L'apertura del fascicolo riguardava l'uso di aerei pubblici per trasportare ospiti nella residenza del Premier Silvio Berlusconi in Sardegna. Si ipotizzava il reato d'abuso d'ufficio, ma per la Procura di Roma non ci sarebbero violazioni, perché in ognuno dei 6 viaggi finito all'attenzione degli inquirenti era presente una persona titolata ad usufruire di quei collegamenti e quindi potevano essere ospitate altre persone. L'archiviazione è anche motivata da una sentenza della Corte Costituzionale che su analoga fattispecie non ravvisò né profili di rilevanza penale né danni erariali. Ad intervenire oggi è anche il fotografo Antonello Zappado, autore delle immagini che ritraggono gli ospiti del Premier all'uscita dei voli, tra cui il cantante Apicella. Non ho violato la privacy di nessuno, dice Zappado, non ho spiato nessuno, semmai ho documentato quello che accadeva nella villa del Presidente del Consiglio. Non è colpa mia se il parco di Villa Certosa è grande e visibile dall'esterno. I volti di tutti gli ospiti erano pixelati, quindi resi irriconoscibili, e Zappato ribalta la ricostruzione della presidenza del Consiglio, sostiene che fu Panorama a cercare lui, non sono uno scemo, dice, Panorama era l'ultimo giornale a cui avevo pensato di vendere le foto. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E a proposito di voli di Stato e di Silvio Berlusconi, è atterrato poco fa quello che ha riportato il Presidente del Consiglio a Roma da Washington, dove ha incontrato Barack Obama. Si è discusso di crisi economica e politica internazionale, ma è stato soprattutto un primo test per i rapporti fra il Premier e il Presidente americano. Non era per nulla scontato il calore del Presidente americano Barack Obama nei confronti del Premier italiano Silvio Berlusconi. Prima la gaffa dell'abbronzato, poi le vicende Noemi e Mills, infine la visita di Gheddafi a Roma con il contorno di accuse di terrorismo agli Stati Uniti. E invece Berlusconi, ieri sera, dopo 2 ore di colloquio alla Casa Bianca con Obama, ha capovolto le previsioni della vigilia, ottenendo dal presidente americano un endorsement alla sua leadership e alla presidenza del G8 che vale molto di più di qualche punto nel consenso tra gli elettori. Oltre a piacermi personalmente, ha detto Obama di Berlusconi, i nostri due popoli si piacciono perché condividono gli stessi valori e gli stessi ideali. E Berlusconi ha apprezzato le doti di Obama che su tutte le questioni internazionali e sull'agenda del G8 sa prendere decisioni concrete e soprattutto di buon senso. Con lui gli Stati Uniti sono davvero in buone mani. Ma non era Berlusconi troppo vicino all'amministrazione Bush? Niente affatto, ha ricordato il Cavaliere. Resto fedele, ha detto, al giuramento di riconoscenza verso gli Stati Uniti che ci hanno dato le libertà e restituito la dignità dopo la guerra. Ho collaborato con Clinton e con Bush e ora collaborerò con Obama. Se anche con lui riuscirò ad instaurare un rapporto personale di amicizia, ne sarò lieto. C'è stato un buon inizio. Due le carte che Berlusconi ha utilizzato per compiacere la nuova amministrazione americana: la decisione di accogliere in Italia 3 detenuti di Guantanamo tunisini e la disponibilità ad aumentare di altri 500 uomini il nostro contingente in Afghanistan. Poco conta se poi Obama ha frenato sul legal standard. All'Aquila si definiranno solo le linee guida, ma il corpus delle nuove regole sulla finanza globale verrà deciso solo dal G20 di Pittsburgh a settembre. Gerardo Pirosi, GR24, Il Sole 24 Ore, Washington. Buongiorno Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito Gerardo Pelosi che ci raccontava quello che è successo ieri. Silvio Berlusconi ha offerto di prendere in Italia 3 detenuti di Guantanamo, poi più truppe per l'Afghanistan e probabilmente anche qualche cambiamento nell'operatività delle truppe stesse. Innanzitutto, c'è una contropartita a tutto questo o la contropartita è puramente politica? Ossia, in questo modo Silvio Berlusconi ha accreditato il suo governo presso la nuova amministrazione americana? No, sì, appunto, credo che la contropartita sia essenzialmente questa. Devo dire che potrebbe andare al di là del semplice accreditamento del governo Berlusconi. L'Italia ha un po' un problema di credibilità e di status a livello internazionale, quindi migliori rapporti con gli Stati Uniti non giovano semplicemente al governo, ma giovano un po' al paese in questo frangente. Quindi diciamo questa è un po' l'operazione. Forse l'aspetto più concreto doveva essere quello della operatività e dell'efficacia del G8, cioè di un rilancio del G8, ma lì i risultati mi sembrano più dubbi, soprattutto perché il G8 si trova nella situazione di avere dopo un G20 che sarà un G20 americano, cioè negli Stati Uniti, e gestito direttamente da Obama. Questo è un po' un rischio per l'Italia, che preferisce evidentemente il G8 o anche il G14, cioè un G8 allargato, a un allargamento al G20 che poi in realtà diventa 22, 23, 24 e in cui il ruolo italiano è molto più diluito. Si è letto nella giornata di oggi su alcuni quotidiani che il fatto che l'Italia accetti di prendere i 3 prigionieri di Guantanamo possa essere molto utile anche all'amministrazione Obama, innanzitutto nel rapporto con gli altri alleati europei e poi anche internamente. Lei cosa crede? Ma sì, c'è in ballo questo accordo tra Unione Europea e Stati Uniti, proprio sui prigionieri di Guantanamo, e c'è in ballo una certa insofferenza del Congresso rispetto allo stesso Guantanamo, a questo ritardo nella sua chiusura o disbandamento, al fatto che Obama ha dei problemi, insomma, nei confronti di questo carcere. Non è così facile tornare indietro dopo tanti anni, quindi ogni disponibilità all'aiuto da parte di un alleato è importante. Diciamo che prendere 3 prigionieri non è moltissimo, è però un segnale positivo per Obama, e potrebbe incoraggiare la situazione sia con gli altri alleati europei sia appunto con il Congresso. No, nel complesso questo è un grosso favore che Berlusconi fa ad Obama. E grazie a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, per essere stato con noi e per averci aiutato a capire. Buona giornata. Prego, arrivederci. E continuiamo a parlare di Afghanistan, perché oggi c'è stata un'informativa urgente del ministro della difesa Ignazio La Russa. Era un'informativa urgente sull'agguato ai 3 paracadutisti della Folgore dell'11 giugno scorso. Ebbene, il ministro ha sottolineato l'aggravarsi della situazione nel paese. Sentiamo. Questa vicenda, onorevoli colleghi, signor Presidente, rappresenta solo l'ultimo di una serie di incidenti tra insorgenti da una parte e forze regolari afghane e nostri militari dall'altra. In tutto l'Afghanistan, da sud a nord, da est a ovest, c'è una fase di maggiore accresciuta pericolosità che è data da ragioni concomitanti, anche se apparentemente diverse. Innanzitutto la recrudescenza degli attacchi è certamente da mettere in relazione con le imminenti elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 20 agosto. Più ancora, tale inasprimento va attribuito all'accresciuta azione di controllo del territorio da parte dell'esercito nazionale afghano. E veniamo ai giornali internazionali, iniziando proprio dalla visita di Berlusconi a Washington. Giulia Crivelli, se ne parla sulla stampa estera oppure no? Sì, diciamo che non è del tutto, non passa del tutto inosservata. C'è un articolo sul Times e un altro sul Washington Post, che naturalmente segue tutto quello che succede nella capitale. Sono articoli molto, come posso dire, che segnalano l'evento, perché in realtà Obama è al centro, soprattutto negli Stati Uniti, di questa di moltissima attenzione, perché sta affrontando il problema dell'America, del welfare americano, che è la sanità pubblica. E siccome ieri ha incontrato l'Associazione dei Medici, quello è la ragione principale per la quale Obama viene citato oggi. Però si parla anche di questa visita. Il Times in particolare ha un articolo congiunto scritto da Richard Owen, che è il famigerato corrispondente da Roma del Times, quello che ha fatto tanto arrabbiare Berlusconi in passato per gli articoli su Noemi, scritto con l'inviato a Washington, dove si descrive appunto Berlusconi e si dice semplicemente che in patria è alle prese con un ugly divorce, un brutto divorzio. Quindi questa volta un articolo molto freddo. Assolutamente. La questione iraniana invece com'è trattata? Questa è proprio sulla prima pagina di tutti i giornali e ci sono queste foto molto suggestive che ovviamente abbiamo visto tutti, di questi cortei giganteschi. La questione naturalmente è che questi cortei stanno anche diventando molto pericolosi per chi vi partecipa. L'altro problema, sottolinea il Wall Street Journal, è che nessuno in realtà adesso in questo momento può fare delle previsioni, perché se è vero che c'è questa grande reazione, per ora abbastanza pacifica, al voto, è anche vero che la cosa potrebbe sfuggire molto presto di mano, anche perché non si capisce bene, scrive il Wall Street Journal, se Ahmadinejad sia andato in Russia per chiedere aiuto eventualmente, oppure se abbia fatto così la linea di comportamento, se facciamo come se tutto sommato non fosse successo niente, si calmerà tutto nel giro di pochi giorni. Sta di fatto che queste foto delle manifestazioni sono su tutte le prime pagine dei giornali, da El País a Wall Street Journal, Financial Times, Le Figaro, tutti i giornali che ho visto ne parlano. Un aggiornamento nel frattempo, visto che siamo in tema: un'agenzia appena uscita, 3 tunisini, 2 dei quali indagati dalla procura di Milano, che li accusa di aver fornito supporto logistico ad una cellula legata al gruppo salafita, sarebbero questi detenuti di Guantanamo in arrivo in Italia, questo secondo alcune fonti dell'ANSA. Chiudiamo in maniera un pochino più leggera, ma parlando sempre di leader internazionali, tra l'altro, Giulia, e di gioielli. Sì, la signora che è diventata famosa perché aveva l'armadio di scarpe più fornito, credo, della storia, si scopre che aveva anche molti gioielli. Parliamo naturalmente di Imelda Marcos, ex moglie moglie dell'ex dittatore delle Filippine. In un primo tempo era sembrato, ne avevano parlato i giornali francesi e alcune agenzie, che stessero per restituire il suo tesoretto di gioielli. Poi, visto che c'è un lancio dell'agenzia francese France Presse, che invece, dove il governo filippino rettifica, no, non glieli restituiamo, ce li teniamo, insomma vedremo come finirà. Tra l'altro i figli di Imelda stanno anche molto bene, sono addirittura in politica nel nord del paese, lei ormai fa una vita normale, quindi forse non avrebbe neanche tutto questo bisogno di rientrare in possesso dei suoi gioielli, però insomma forse li riavrà. È comunque una discreta cifretta. Grazie, grazie anche per oggi Giulia Crivelli. Le 13:34 minuti, 7 secondi, le principali notizie della giornata. I voli di Stato di Berlusconi in primo piano, i PM di Roma inviano gli atti al Tribunale dei Ministri, ma chiedono l'archiviazione. Ci sono state vittime in Iran nelle proteste contro Ahmadinejad. Oggi pomeriggio erano previsti nuovi cortei, ma il leader riformista Mousavi chiede ai suoi di non scendere in piazza. E di pochi attimi fa la notizia che ci sarà una nuova manifestazione dell'opposizione domani. Intanto il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione dice: siamo pronti a ricontare i voti. Reputazione compromessa, serve più trasparenza, è quel che dice il presidente dell'antitrust alle banche, che poi si rivolge anche alle aziende: non scarichino i costi della crisi sui consumatori. In Italia dovrebbero arrivare 3 detenuti di Guantanamo, lo ha promesso il presidente del Consiglio ad Obama. Sarebbero 3 tunisini, 2 dei quali indagati dalla procura di Milano. Si va verso i ballottaggi alle urne domenica e lunedì in 5 province e 43 comuni. Tra un attimo sentiremo le interviste ai 2 candidati sindaci di Firenze. La Camera al voto sul decreto terremoto, che oggi potrebbe diventare legge, ma gli amministratori locali non ci stanno. E dunque, conto alla rovescia per i ballottaggi delle amministrative che si svolgeranno domenica e lunedì, lo ricordiamo, in contemporanea con il referendum che vuole modificare la legge elettorale. In questi giorni nel GR Extra Large e nei GR della mattina parleremo delle sfide più importanti in alcuni comuni o province. Iniziamo da Firenze, dove si vota per il sindaco. Al ballottaggio Matteo Renzi, giovane candidato del Partito Democratico e presidente della provincia uscente, appoggiato anche dall'Italia dei Valori e da varie liste civiche. Ha ottenuto il 47,6%. Lo sfidante Giovanni Galli, ex calciatore, proposto da PDL, Lega e alcune liste civiche, che ha avuto il 32% delle preferenze al primo turno. Ecco come i due candidati si preparano al ballottaggio. Iniziamo da Renzi. Ci aspettavamo qualcosina in più, ci aspettavamo di vincere la prima, non ce l'abbiamo fatta, però partiamo al ballottaggio da 16 punti percentuali di vantaggio e il nostro compito allora sarà quello di combattere soprattutto l'astensionismo più che Giovanni Galli, quindi abbiamo soltanto rimandato la vittoria che sono sicuro col contributo di tutti riusciremo a ottenere domenica e lunedì. Quanto ha pesato il fatto che la sinistra si sia presentata divisa in questa tornata elettorale? Ha pesato moltissimo, perché noi abbiamo preso il 48% con la sinistra riformista e le liste civiche, la sinistra radicale ha preso il 14%, però bisogna fare delle scelte. Io preferisco rischiare di andare al ballottaggio e andare al ballottaggio piuttosto che poi arrivare alla paralisi. Quali sono i principali contenuti del suo programma politico? I principali contenuti sono una città che si tolga di dosso un po' di polvere. Firenze è meravigliosa, ma un po' troppo spesso è un museo a cielo aperto. E allora spazio all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale, a beni culturali che diventino una ricchezza. Qui a Firenze nessuno vuole parlare di cultura in questa campagna elettorale, siamo gli unici a farlo. Accanto naturalmente alle piccole cose di ogni giorno, la pulizia, il decoro. Ed era Matteo Renzi, candidato sindaco del Partito Democratico a Firenze, intervistato da Micaela Nasca. Così come è di Micaela Nasca l'intervista a Giovanni Galli del centrodestra, sentiamo. Io non riesco a definirlo un programma politico, ma un programma di volontà della città, per amministrare la città, per ridargli la sua identità, riappropriarci del territorio e riappropriarci di quelle che sono le virtù di questa città. Ci sono delle priorità in assoluto e che sono la lotta al degrado, la sicurezza, la mobilità, il sociale. In quale modo si pone come alternativa al governo di centrosinistra? Con un programma che è certamente la discontinuità, perché se dovesse vincere Renzi si dà credito più che altro a una continuità di quello che è stato fatto fino ad ora dall'amministrazione di Domenici, per cui è quello che Firenze non vuole assolutamente. Al ballottaggio parte con 16 punti di svantaggio, si aspetta di ribaltare il risultato? Quello che mi lascia ben sperare è il riconoscimento che è stato dato alle due liste che portano il nome dei due candidati, e mi riferisco alla lista di Renzi che ha preso il 5% e la lista di Galli che invece ha preso il 10%. Dagli amministratori locali agli amministratori nazionali, una vera e propria classifica di efficienza dei deputati. A stilarla è stato l'osservatorio costituito da Cittadinanza Attiva, Controllo Cittadino e Open Polis. L'indice di attività si basa sulle firme apposte agli atti legislativi o ispettivi, sulla quantità di interventi in aula o in commissione e così via. Ne emerge che su una scala da 1 a 10 l'Italia dei Valori, tanto per fare un esempio, ha l'indice di efficienza più alto alla Camera con un 3,57 contro il 2,01 del PDL che è ultimo. Seconda in classifica la Lega, terzo il PD. Sentiamo Antonio Gaudioso, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva, intervenuto oggi a 24 mattina al microfono di Alessandro Milan. Beh, diciamo che non c'è una, diciamo, la parte di coloro i quali aggiunge la sufficienza è abbastanza bassa, molto bassa, e devo dire da questo punto di vista, mi permetta prima di entrare nel merito poi dei dati, c'è un primo elemento che balza all'occhio. C'è una scarsa autorevolezza dell'istituzione che secondo noi è legata anche al fatto che nel momento in cui non c'è un rapporto diretto tra elettore ed eletto è ovvio che viene a mancare anche la capacità di fare da contrappeso. Basta, rispetto al governo, basta dare un dato: il 90% delle leggi approvate nell'ultimo anno sono di iniziativa del governo e solo il 10% del Parlamento. C'è stato un piccolo problema con l'audio. Ci spostiamo in Malesia, dove da Singapore è arrivata la missione di ICE, ABI e Confindustria. C'è la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, buonasera, siamo a Kuala Lumpur, la città dove la carta è quasi un pezzo d'antiquariato. Usciti dal nuovissimo aeroporto di Kuala Lumpur, da 3 anni il migliore nel mondo, si entra nel paese dell'olio di palma, della nuova finanza islamica e della burocrazia senza archivi. Scordatevi i polverosi fascicoli di tribunali e anagrafi nostrani. Qui l'elettronica d'avanguardia e le nanotecnologie sono al servizio della pubblica amministrazione, con archivi digitali ospitati in centri super tecnologici ma anche ultra ecologici e di design, progettati da più architetti come le Petronas Tower, le Twin Towers d'Oriente. Da quando il governo ha stabilito che la propria doveva essere un'economia basata sulla conoscenza, il boom di ricerca e produzione di elettronica di precisione è stato costante. Ed è qui, come dicevate, che da oggi anche le nostre imprese, al seguito della missione di Confindustria, ABI e ICE, cercano partner d'affari. Alcuni accordi aspettano in realtà solo di essere siglati, per la componente ecologica ad esempio di un'azienda di pneumatici o per un grande evento sportivo di fitness. Ma l'interesse per il paese è altissimo, qui dove KL vuole diventare un marchio, proprio come Los Angeles, e dove il governo conserva molto bassa la moneta proprio per attrarre investimenti stranieri. Ve li racconteremo nei prossimi giorni. E da Kuala Lumpur è tutto. Grazie Raffaella, e anche queste missioni internazionali naturalmente fanno parte di tutti i tentativi di andare oltre la crisi. Oltre la crisi, peraltro, è il titolo di un volume in edicola da oggi per 2 mesi al prezzo di 8,90 euro, un'opera che raccoglie una selezione di articoli dei migliori esperti, manager, imprenditori, consulenti, docenti di management della Harvard Business Review, la rivista di management più diffusa e prestigiosa al mondo. Enrico Sasson, direttore della Harvard Business Review, cosa emerge da questi articoli? Buongiorno naturalmente. Buongiorno, emerge, sono articoli che vengono tutti quanti focalizzati su cosa occorre fare per battere la recessione e venire fuori dalla crisi nella maniera migliore, e sostanzialmente viene fuori che quello che le aziende, i manager delle aziende, gli imprenditori devono fare è di focalizzare l'attenzione soprattutto su mettere in ordine la propria azienda in vista di quella che sarà la ripresa senza aspettare che si manifestino prima i segnali di recupero. Poi occorre guardare al mercato, guardare ai clienti, mettere a punto quelle che saranno le offerte successive e quindi guardare con molto ottimismo a quello che verrà, perché la ripresa ci sarà. Grazie Sassoon. Dall'edicola, dove trovate appunto questo volume, ci spostiamo nel mondo digitale per una strana fusione di generi: musica, videogame, fumetto. La musica diventa videogioco e fumetto. È uscito Human Environmental Return of Output Input Network, il nuovo singolo dei Motel Connection, gruppo dance torinese. Il progetto, nato per il nuovo album previsto per gennaio 2010, mette a sistema il basso impatto ambientale, la tecnologia e la creatività. In collaborazione con il Politecnico di Torino, la Scuola Internazionale di Comics, una software house. Tutti insieme per creare, forse, la musica del futuro. Intanto il singolo è già un hit. Il game online è stato giocato in poco più di un mese da oltre 1 milione di persone e a breve uscirà una miniserie a fumetti con i 3 Motel in versione supereroi. I commenti di Samuel, frontman dei Subsonica, voce dei Motel Connection, DJ Pisti, Pier Funk. Lo scarto di un'azienda può essere la materia prima per un'altra azienda. Questo è un meccanismo naturale che, organizzato e messo a sistema, può permettere il riutilizzo di materiali, produzione di eventi o di prodotti con un impatto ambientale prossimo allo zero. Sperimentare per la prima volta, abbiamo fatto un videogioco di Motel Connection. Dal videogioco, dove noi siamo protagonisti, è nato un fumetto e quindi la connection si allarga sempre di più a tutto. Nell'idea di Motel Connection c'è quello di mettere insieme delle persone con i loro progetti, persone altre dall'ambito musicale, e questa volta l'idea è proprio di valorizzare delle creatività oltre la nostra, più dedicata alla musica, che però possono dare un contributo allo sviluppo di un progetto integrato. Tutte le info su motelconnection.co.uk. Mauro Garofalo, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:46 minuti 42 secondi e al vaglio della Camera oggi il decreto terremoto, che dovrebbe ricevere il via libera definitivo dall'Aula dopo essere passato al Senato. In piazza Montecitorio si sono raccolti gli amministratori locali, ma anche alcuni residenti abruzzesi. Quel che sta succedendo lo sentiamo in diretta dal nostro Andrea Viali. Andrea. Simone, sì, nel primo pomeriggio l'aula di Montecitorio oggi inizierà a votare il decreto per la ricostruzione dell'Aquila e di tutti gli altri centri colpiti dal terremoto. La maggioranza intende convertire in legge questo provvedimento con lo stesso testo che è stato varato nei giorni scorsi dal Senato. L'opposizione chiede invece di migliorarlo e per questo ha presentato quasi 500 emendamenti, e proprio dagli emendamenti inizieranno le votazioni. Il governo ha fatto sapere che non esclude il ricorso alla fiducia per arrivare ad una rapida approvazione di un testo che però anche gli abitanti delle zone terremotate stanno chiedendo di modificare, e per questo hanno organizzato un sit-in che è iniziato un po' in ritardo, sta iniziando in questi minuti in realtà davanti a Montecitorio. Sono diverse centinaia, 500-600 forse, gli abitanti dell'Aquila che sono arrivati stamattina a Roma. Hanno sfilato anche in via Corso un piccolo corteo aperto da uno striscione dove sopra c'era scritto "Forti e gentili sì, fessi no". Ecco, insomma, con loro c'è anche il sindaco dell'Aquila. Abbastanza indicativo. E poi un altro particolare, se vuoi, di colore, Simone, è che alcuni di loro stanno cercando di montare delle tende da campeggio sotto l'obelisco che c'è qui di fronte all'ingresso di Montecitorio. Protestano, chiedono sostanzialmente non promesse ma risorse vere per costruire le loro case, chiedono anche più chiarezza, più trasparenza nelle procedure, negli appalti che serviranno per la ricostruzione, Simone. Grazie Andrea, questo dunque l'umore della piazza a Montecitorio. Sentiamo com'è l'umore della piazza all'Aquila, l'umore nelle tendopoli. E brevemente Marcello Ianni. Sì, praticamente qui l'emergenza afa sotto le tende e la rabbia di numerosi sfollati per non aver saputo della manifestazione di protesta a Roma, anche a causa di una circolare della Protezione Civile che ha impedito nei giorni scorsi agli organizzatori di promuovere la trasferta capitolina all'interno delle 180 tendopoli. Questa praticamente è la giornata che stanno vivendo i terremotati nei campi di accoglienza. Chi è attaccato alle emittenti locali, che al cellulare del parente o dell'amico presente nel sit-in a Montecitorio, gli sfollati stanno cercando di avere notizie sul decreto Abruzzo, giudicato del più ingiusto e discriminatorio, in discussione tra poco alla Camera. All'interno delle tendopoli c'è malumore dopo la decisione appunto della maggioranza di voler licenziare lo stesso testo del Senato senza modifiche. I punti cardini della protesta sono la garanzia della riparazione di tutti i danni causati dal terremoto, comprese le seconde e terze case e quelle appartenenti a persone non residenti, la riapertura del centro storico, l'istituzione di un fondo specifico per la ricostruzione dell'immenso patrimonio edilizio dei beni culturali pubblici e privati dei centri storici, il riconoscimento della zona franca, area in cui detassare le attività imprenditoriali, commerciali e professionali, nonché risorse adeguate per risarcire gli imprenditori che hanno avuto le aziende danneggiate e infine risorse agli enti locali e alle aziende pubbliche per compensare i mancati introiti. Dalle tendopoli si annunciano altre pesanti forme di protesta se la Camera oggi non dovesse approvare gli emendamenti presentati dall'opposizione. Grazie Marcello anche per questi aggiornamenti. Siamo quasi in chiusura e parliamo di concerti, l'estate dei concerti. Sentiamo quali sono i principali. L'estate si preannuncia calda e non solo per ragioni climatiche. Sul fronte musicale sarà addirittura bollente, con una lista di concerti imperdibili davvero abbondante, alcuni già sold out da mesi. Sul fronte degli artisti stranieri si va dai Metallica, che tornano in Italia per due attesissimi concerti, il 22 giugno a Milano e il 24 a Roma, ai mitici U2 a San Siro il 7 e l'8 luglio, seguiti il 14 da Madonna con lo Sticky and Sweet Tour, show autocelebrativo sui suoi 25 anni di onorata carriera. Due giorni dopo, il 16, la regina del pop si esibisce anche a Udine. Immancabile il campione di incassi Bruce Springsteen. Il boss, ancora pieno di energia nonostante i quasi 60 anni che compirà a settembre, sarà in Italia con tre appuntamenti, il 19 luglio a Roma, il 21 a Torino e il 23 a Udine. Bisognerà attendere invece la fine di agosto per altri due grandi eventi: il concerto degli Oasis sul palco il 30 agosto a Milano, imperdibile vista l'intenzione di uno dei due fratelli Gallagher, Noel, di prendere una lunga pausa, almeno 5 anni prima di far uscire il prossimo album del gruppo inglese, e poi il concerto dei Coldplay il 31 agosto a Udine. Sul fronte italiano invece da non perdere assolutamente, anche se la lista è lunga anche qui, il concerto di domenica prossima 21 giugno allo Stadio Meazza a Milano, intitolato Amiche per l'Abruzzo, che vedrà alternarsi sul palco tantissime artiste italiane riunite da Laura Pausini, da Gianna Nannini a Fiorella Mannoia e Elisa, solo per citarne qualcuna. Un evento che sarà seguito da tutte le emittenti nazionali private italiane mobilitate insieme per la prima volta per una manifestazione di solidarietà e di raccolta fondi a sostegno dei terremotati d'Abruzzo. Il concerto di San Siro verrà trasmesso in contemporanea in tutta Italia. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. I voli di Stato di Berlusconi, PM di Roma inviano gli atti al Tribunale dei Ministri e chiedono l'archiviazione. 7 vittime in Iran e nuovi arresti nelle proteste contro Ahmadinejad. Domani nuova manifestazione dell'opposizione. Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione dice pronti a ricontare i voti. Reputazione compromessa, serve più trasparenza, dice il presidente dell'antitrust alle banche e alle aziende, non scarichino i costi della crisi sui consumatori. In Italia 3 detenuti di Guantanamo, promette il presidente del Consiglio ad Obama. Sarebbero 3 tunisini, 2 dei quali indagati dalla Procura di Milano. Maxi operazione antimafia, 13 persone arrestate che coprivano Matteo Messina Denaro. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Il prossimo giornale radio è alle 15, il GR Extra Large torna invece domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.